4 mattino. No, ma scusate, c'è stata la crisi e in 12 anni c'è stato fatto un contratto da 40 euro netti. Arriva lo smart working e giù proteste, ma che ignoranti. Lo smart working è lavoro tracciato, tracciabile, quantificabile. Allora, i dipendenti pubblici dal 2009 ad oggi hanno avuto un solo contratto in 11 anni che ha recuperato forse un terzo dell'inflazione che hanno perso. Siamo di nuovo senza contratto dal 31 dicembre del 2018. Io credo che se i dipendenti pubblici abbiano un nuovo contratto con un piccolo aumento non si debba scandalizzare nessuno. Ecco, insomma, le categorie con cui normalmente tratta Confindustria ogni 3 anni vanno a trattativa per avere un nuovo contratto. Non capisco perché per gli statali bisogna scandalizzarsi. 10 miliardi per i dipendenti pubblici, che sono gli unici che in questa pandemia, pur non lavorando nella maggior parte delle volte, hanno percepito sempre lo stipendio. Oh, non concordo col punto dell'ultimo ascoltatore, cioè il ragionamento non hanno lavorato nella gran parte delle volte, queste generalizzazioni servono a poco. Diciamo che c'è un pezzo della pubblica amministrazione che ha lavorato bene, un pezzo della pubblica amministrazione che ha lavorato male e un pezzo della pubblica amministrazione che non ha lavorato per niente, ma questo avveniva anche quando si rimaneva negli uffici, a dire il vero. Detto ciò, ovviamente il dibattito è aperto, ma il dibattito, lo dico agli ascoltatori che sono dipendenti pubblici, non verte tanto sul rinnovo, che sì, è dovuto dopo tutti questi anni, per carità, ma verte sull'idea di proclamare uno sciopero perché i soldi del rinnovo del contratto non ti bastano. Con tutto il rispetto per chi svolge questo lavoro con tutta l'attenzione dovuta e con un atteggiamento da, come si dice elegantemente, da civil servant, forse è il caso in questo momento particolare di accontentarsi, vista la desolazione che attraversa un pezzo del paese. Quel pezzo del paese che è il lavoro autonomo, che sono le imprese, che sono i lavoratori delle aziende private in cassa integrazione, che a volte magari nemmeno la ricevono. Comunque ne parleremo alle 8.35 con la segretaria generale della CISL, Anna Maria Furlan. Ovviamente, sempre benvenuti i vostri interventi al 349-238-6666, WhatsApp audio, SMS, messaggi su WhatsApp, tutto quello che volete. Siamo anche in diretta su Facebook. Questa è la seconda parte di 24 Mattino, quella dedicata alla rassegna stampa. È martedì 17 novembre, sono le 7.22 minuti e 40 secondi. Al microfono sempre Simone Spezia, e i giornali oggi si dividono fortunatamente sulle aperture, quindi abbiamo un po' più di varietà rispetto al solito, perché alcuni si dedicano nello specifico alla pandemia e a quello che succede in termini di tensioni tra regioni e governo. Altri si dedicano alle questioni europee, altri ancora a quelle economiche e alla manovra. È tutto ovviamente collegato a tutto il filo rosso di Covid-19 che lo tiene insieme, però i temi sono questi. Il Corriere della Sera, per esempio, parla del pressing per misure meno dure che arriva ad alcune regioni come Lombardia e Piemonte, che forniscono dati positivi di maggiore contenimento del virus. La Repubblica ci parla dell'ipotesi secondo la quale alcune regioni starebbero pensando a far uscire le province meno colpite dalle zone rosse. Di questo, come ricorderete, nei giorni scorsi molto si era parlato. Il Messaggero ci lancia l'allarme dell'Ordine dei Medici ospedali. 15 giorni al collasso, se il contagio non cala il sistema è fuori controllo. E a proposito di collasso o non collasso, La Verità sottolinea invece le parole del commissario Arcuri. Poi ci arriveremo a queste parole del commissario Arcuri, perché in realtà sono a quanto pare anche queste smentite dai numeri. Il commissario smentisce il governo: terapie intensive? Non c'è allarme, e dice oggi nessuna pressione sui reparti. Su questo c'è stata una rivolta da parte dei medici, dei clinici, di quelli che operano negli ospedali e un po' anche sul fronte dei numeri. Conte fuori strada, si dedicano alla Calabria un po' di quotidiani. Conte fuori strada, la sanità in Calabria, il governo nomina Gaudio, indagato, nuovo commissario, il medico di emergency gela il premier, non vuole fare il vice. Il Fatto Quotidiano invece ci fa sapere quello che Strada potrebbe fare. Strada in Calabria, 4 ospedali da campo. Con tutto il giro delle nomine di Conte, che arriva l'ex rettore della Sapienza nei guai a Catania, e appunto Strada realizzerà alcuni Covid hospital con la Protezione Civile. Almeno queste sono le intenzioni del governo, ma fino a ieri Strada aveva detto di non aver ricevuto un contatto formale. Libero apre col nuovo tampone di Zaia, costa 3 euro ed è rapido, va bene, ne abbiamo parlato ieri, se volete c'è il podcast della parte della trasmissione che inizia alle 8:20 e abbiamo avuto ospite alle 8:35 proprio Luca Zaia. Avvenire e Il Manifesto ci portano in apertura su questo scontro europeo sul Recovery Fund con Ungheria e Polonia che vanno, come dice Avvenire, contro l'Europa solidale, perché i veti bloccano il bilancio europeo e i fondi per la ripresa, quelli che Il Manifesto definisce veti crociati, facendo riferimento chiaramente alle posizioni dei leader ungherese e polacco, che come sapete sono dei forti difensori, per così dire, dell'identità cristiana. La Stampa apre con il via alla manovra antivirus, ma è scontro con i sindacati. Il Sole 24 ci racconta appunto dei 10 miliardi per i dipendenti pubblici in apertura, mentre il Quotidiano Nazionale intervista il presidente di Confindustria Carlo Bonomi, che dice no alla politica dei sussidi. Questo il titolo appunto del Quotidiano Nazionale. Iniziamo come sempre però da qualcosa di diverso e andiamo su un fatto di cronaca, un paio di fatti di cronaca a dire il vero. Innanzitutto partirei dalla Stampa, che a pagina 14 con Giuseppe Legato ci porta ad una vicenda che ricorda e per fortuna non si è conclusa nello stesso modo. Storie simili. La maestra e il video hard in rete, dopo la gogna c'è il licenziamento. La storia che ci racconta Giuseppe Legato è di una donna impiegata in un asilo nido di un comune del torinese che conosce un uomo calciatore dilettante. La storia dura poco, mentre si frequentano la ragazza invia un video hot, 18 foto, un video, lui guarda i file, li trattiene nella memoria del telefonino, poi quando si lasciano invia tutti questi video e queste foto agli amici della squadra di calcetto. Tra i quali amici della squadra di calcetto ce n'è uno che ha la figlia che va nell'asilo nel quale questa donna insegna. La moglie di uno dei giocatori, spiando il telefonino del marito, una storia di provincia che però sappiamo dove avrebbe potuto portare. Trova le foto, si accorge che la ragazza ritratta la maestra dell'asilo del paese, frequentata peraltro da suo figlio, infuriata, gira il video a tutte le altre mamme nel gruppo WhatsApp. Guardate, non so cosa dire. E poi dice, dato che è amica del suo ex fidanzato, di questa persona con la quale ha avuto una storia, dice: guai a te se lo denuncio, lo dici in giro, altrimenti dico tutto alla dirigente dell'asilo. Ma la notizia alla dirigente dell'asilo arriva lo stesso, qualcuno le fa arrivare il video e lei decide addirittura non solo di licenziarla, ma di umiliarla pubblicamente, rendendo noti i motivi per i quali era stata cacciata nel provvedimento pubblico di allontanamento dalla struttura, spiegando ai padri e alle madri: in questo modo avrà un marchio addosso per tutta la vita e non troverà lavoro manco per pulire i cessi della stazione. Così. E tutto questo ovviamente, e per fortuna, finisce in tribunale, anche se non è ancora finita. Sullo sfondo restano frenetiche trattative per il risarcimento del danno alla maestra. Parte lesa ha chiesto centinaia di migliaia di euro e, diciamocelo francamente, speriamo che li spenni tutti. A proposito di donne che hanno subito abusi o presunti tali nella fattispecie, c'è la seconda soluzione, solo Libero gli dà ampio spazio a questa vicenda, perché c'è una certa pudicizia da parte dei giornali, la trattano un po' con pudore questa vicenda. Ve lo ricordate Francesco Bellomo? È l'ex consigliere di Stato, insieme a Davide Nalin, ex pubblico ministero a Rovigo, che erano accusati di questo sistema Bellomo. Lui doveva formare delle ragazze, delle persone, delle borsiste nella scuola di formazione diritto e scienza per aspiranti giovani magistrate. Ebbene, il sistema Bellomo, raccontano i magistrati, prevedeva modalità formative particolari delle borsiste, cui veniva imposto per contratto un dress code provocante e la sottomissione ai dettami dell'agente superiore, Bellomo stesso, inclusa l'omertà. Ebbene, è arrivata la seconda soluzione di fila per Francesco Bellomo. Scrive Francesco Specchia sul Libero a pagina 11, sicché alla fine della fiera il giudice Francesco Bellomo è stato assolto, sicché il presunto satiro, lo stalker di giovani borsiste, l'ex consigliere di Stato inguaiato per, diciamo, un'interpretazione estensiva del ruolo di docente, beh, non finirà in galera. Si è stabilito di fatto che un conto sia l'etica e la morale dell'uomo e un conto la sua punibilità in punta di diritto penale. Dunque, Bellomo è stato assolto ieri dal Tribunale di Piacenza dal reato di lesioni perché il fatto non sussiste ed è caduta anche l'accusa di stalking nei confronti di una giovane donna partecipante alla scuola di formazione. Bellomo, che ha ottenuto dunque una seconda vittoria penale dopo l'archiviazione arrivata a Milano, dove era accusato di atti persecutori e violenza privata nei confronti di 4 studentesse della scuola. C'è anche un rinvio a giudizio a Bari, lo diciamo, il processo per maltrattamenti avrà il via il 3 dicembre. Vedremo come andrà a finire. Una pausa. Buongiorno Simone, ma i 27 milioni di dosi del vaccino della Pfizer che va tenuto a meno 70, adesso che è arrivato quell'altro, sta arrivando quell'altro che si tiene a meno 7, meno 10, dove li mettiamo quei 27 milioni a meno 70? Bello, siamo tutti contenti perché ci dicono che c'è il vaccino, ma io mi ricordo che dicevano per avere un vaccino ci sarebbero voluti anni. Adesso spuntano i vaccini come funghi. E quindi? No, mi scusi, caro ascoltatore, e quindi non capisco dove andiamo a parare con questa. Il vaccino Pfizer, guardi, più armi, più frecce abbiamo al nostro arco, meglio è, in tutta sincerità. E visto che non siamo preparati a distribuire il vaccino, quello a meno 70, non si ponga nemmeno il problema a questo punto. No, si fa per scherzare, però più frecce abbiamo al nostro arco, meglio è sicuramente. Di certo la competizione è innescata sui vaccini, Prendete... Questa, la vignetta di Macox oggi sul Foglio è stupenda, perché il disegno è di un omino con un camice, che però ha l'aria di quello che a Roma si chiama il pizzicagnolo, di uno che sta in un negozio di alimentari. E da zii Ippocrate solo l'umeio, c'è scritto. E dopo la competizione tra case farmaceutiche sull'efficacia del vaccino 90, 92, 94, si passò a puntare sul sapore. E l'omino che dice: dai signor, senti che roba, tutto antigene genuino delle campagne nostre, che... Non è male. Un po' più seriamente, passando proprio appunto al vaccino, e resterei sul Foglio a questo punto, c'è la consueta rubrica Cattivi scienziati di Enrico Bucci sul Foglio, appunto, il quale mette giù qualche dubbio anche sul, più che sul vaccino annunciato ieri, quello di Moderna, quello con un'efficacia al 94,5%, più in generale su questa sequenza di annunci. Dice questo: per quale di questi numeri la comunità scientifica ha avuto a disposizione dati in modo da poter capire e giudicarne la reale consistenza? Nessuno. E si badi bene, non parlo di dati da pubblicare necessariamente su una rivista scientifica, ma anche solo semplicemente di dettagli sufficienti e accesso a database anonimi per poter esaminare bene i risultati ad interim. Invece, non solo le aziende annunciano e gli investitori scommettono sostanzialmente al buio, ma il pubblico riceve l'impressione dai media, anche autorevoli, che le cose siano ormai assodate e certe. Ora, io non dubito che un annuncio falso da parte di un'azienda, ma non da parte di Putin, se si rivelasse completamente infondato porterebbe a danni di mercato di grave entità. Dubito però fortemente della possibilità di valutare una differenza del 2% di protezione sulla base di proclami dell'amministratore delegato o degli analisti di mercato. E questo a scalare al rialzo degli annunci che arrivano non fa altro che alimentare quel dubbio, scrive Enrico Bucci. Più ottimista invece il direttore dell'AIFA, dell'Agenzia Italiana per il Farmaco, Nicola Magrini, che intervistato da Paolo Russo sulla Stampa a pagina 3 dice che i dati comunicati oggi da Moderna sono più esaustivi dell'annuncio di Pfizer della scorsa settimana e i dati ci dicono che sui 15.000 volontari ai quali è stato somministrato il vaccino solamente 5 hanno contratto l'infezione contro i 90 malati che si sono registrati tra gli altri 15.000. ai quali era stato somministrato un semplice placebo. Ho potuto intravedere anche i dati della Pfizer e devo dire che sono analoghi a quelli di Moderna. Ci sono anche altri vaccini in rampa di lancio, come quello di AstraZeneca, dice Magrini. Per metà dicembre mi aspetto che tutti e tre possano consegnare i dossier con i dati completi per avviare la valutazione da parte dell'EMA. Qualche settimana per completare la revisione dei dati sarà necessaria, ma per metà gennaio potremmo arrivare ad una valutazione comparativa di tutti e tre in modo da averli contemporaneamente a disposizione e quindi ci dà su questo fronte una buona notizia. Magrini, speriamo che sia effettivamente così. Nel frattempo c'è la gestione del Covid sul territorio, che si compone, come ben sapete, di tante cose, tra cui la mitologica burocrazia. Prendete la storia che ci racconta Paolo Berizzi su Repubblica a pagina 8. A Milano è pronto, ma da qualche tempo, un enorme drive-in dei tamponi rapidi. Avrebbe potuto o potrebbe erogare intorno ai 960 tamponi al giorno. È quello che si trova a Linate, realizzato dall'esercito, ma è fermo. Come mai? Perché non sta arrivando l'autorizzazione dall'azienda territoriale sanitaria di Milano. Così siamo messi. La grande postazione di drive-thru allestita dall'aeronautica dietro l'aeroporto di Linate, nella sede del centro logistico sportivo di presidio della prima regione aerea di Milano, disponibile da 20 giorni e anche più, e non ancora aperta. E questo nonostante Milano e la Lombardia, zona rossa, siano tra le aree più colpite dall'emergenza Covid, in continua quotidiana sofferenza anche per quanto riguarda i tamponi. Dice il colonnello dell'aeronautica militare Alberto Di Carlo, senza accusare poi la TS, perché sapete come sono i militari, sono sempre morbidi nelle dichiarazioni in questo caso. Dice: l'organizzazione dei drive-thru è in capo alla TS, quindi là ci sono le strutture pronte, ci sarebbero anche i medici pronti per farlo, tutto il personale necessario, e però non si parte per questo nuovo giro che dovrebbe consentire appunto di effettuare più tamponi. Così come il TAR del Lazio, racconta Fabrizio Caccia su Corriere della Sera, pagina 8, ha fermato i medici di famiglia, dicendo no all'assistenza a domicilio. Cosa era successo? Era successo che la Regione Lazio aveva fatto un'ordinanza e aveva chiesto di far sì che i medici di base potessero assistere anche i malati di Covid sul territorio. Il sindacato dei medici italiani ha fatto ricorso e il TAR gli ha dato ragione. La competenza sulla gestione dei malati di Covid deve andare alle unità territoriali, quelle le USCA, quelle delle quali abbiamo parlato tante volte, che sono quelle appunto che avrebbero in capo, secondo le indicazioni del Ministero e secondo i provvedimenti presi dal governo, avrebbero in capo la gestione dei malati di Covid sul territorio. E però c'è un allarme. Quello che lancia l'assessore regionale alla sanità Alessio D'Amato è che questa sentenza del TAR rischia di far saltare l'intera rete d'assistenza territoriale in Italia. Perché? La spiegazione è questa. Secondo il TAR, dunque, un anziano iperteso diabetico e con il Covid può avere un'assistenza domiciliare del medico di medicina generale solo per il diabete. e non per il Covid, dice D'Amato. Pensare come fa il TAR di destinare solo l'assistenza domiciliare non Covid ai medici di famiglia non solo non considera il quadro di cronicità e pluripatologie presenti soprattutto nelle fasce di popolazione più anziana, ma tecnicamente significa non garantire più alcuna assistenza domiciliare. Prima della pausa, prima del traffico, ho molte cose sulla scuola. C'è una lettera della ministra Lucia Azzolina che scrive alla Stampa dopo che sulla Stampa avevano mandato a lei una lettera ai liceali torinesi. Dice che lasciarli a casa è una sconfitta, fa sapere riapriremo le scuole. Sulle scuole c'è sempre il giornale invece che a pagina 13 con Francesca Angeli ci porta un po' sui dati che ci fanno dire che sarebbe necessario riaprirle. Su 7 degli indicatori chiave identificati dalla Commissione europea, l'Italia è sotto la media europea in lettura, matematica, scienze, abbandono scolastico, livello di istruzione terziaria, istruzione degli adulti. E sarebbe stato appunto un buon motivo per tenere aperte le scuole. Mi riservo invece per dopo il traffico il polemicone del giorno, quello sul commissario Arcuri che dice abbiamo 11.000 posti in terapia intensiva, ma in realtà non è vero. Mattino. Allora, la vicenda Arcuri è non è male, è il giornale, pagina 11, abbiamo 11.000 posti, Arcuri sbaglia i conti e scatena gli anestesisti, tra l'altro in una serie di dichiarazioni nelle quali ieri il commissario ha detto tra le altre cose che al picco abbiamo avuto circa 7.000 pazienti in rianimazione, ma il 3 aprile il picco era di 4.000 pazienti in rianimazione, e però soprattutto tutto si concentra sul fatto che ha detto che le terapie intensive non sono sotto pressione e che abbiamo 11.000 posti. Non è vero, dicono gli anestesisti, i posti di terapia intensiva oggi disponibili ed attivabili sono valutabili intorno a 7.500, ma perché allora Arcuri parla di 11.000? Perché, racconta appunto Francesca Angeli, spiegano i medici, evita di specificare che circa 3.500 di quei posti letto sono solo sulla carta, attivabili in condizioni critiche e non immediatamente, perché comprendono letti in via di approntamento, le cui gare sono partite solo a ottobre, nonché letti subintensivi e chirurgici già utilizzati nelle ordinarie attività ospedaliere. E, tra l'altro, questo contrasta anche con le parole, per esempio, di Antonio Pesenti, direttore del Dipartimento di Anestesia e Rianimazione del Policlinico di Milano, il quale dice: in Lombardia non abbiamo più posti liberi per i malati di Covid e tutti i giorni dobbiamo inventarli. Così questo nuovo scontro, chiamiamolo così, sui dati della terapia intensiva. C'è tutto il fronte economico e si compone di una serie di cose, della quale mi pare che la più rilevante oggi sia sicuramente questo blocco di Polonia e Ungheria sul budget europeo. È una nuova frenata che mette in dubbio, non mette in dubbio, cioè mette crea un inciampo importante sulla strada per il recovery fund. E la cronaca migliore la trovate sul Sole 24 Ore, direi, con Beda Romano, corrispondente da Bruxelles, che ci fa sapere giustamente che tocca alla Merkel superare il veto di Polonia e Ungheria sul budget. Polonia e Ungheria che hanno, come nei loro diritti, bloccato l'aumento delle risorse del bilancio, dossier che sarà in discussione giovedì al Consiglio europeo in videoconferenza. Sono insoddisfatti della decisione del Parlamento e del Consiglio di condizionare l'esborso dei fondi europei al rispetto dello Stato di diritto, questione che li colpirebbe. Commenta Giuseppe Chiellino, sempre sul Sole 24 Ore, che è un azzardo sovranista di Varsavia e Budapest, ma i fondi in realtà fanno comodo soprattutto a loro perché sono tra i maggiori beneficiari. A proposito di Europa, c'è tutta questa discussione innescata dal presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, il quale, ne abbiamo accennato ieri, ha sostenuto che bisognerebbe annullare il debito, cancellare il debito dei paesi contratto per il Covid, che è questione che ha fatto sollevare più di qualche sopracciglio anche in Europa. E qua fatemi andare da... Oggi parecchia roba sul foglio, è così, eh? Fatemi andare da Luciano Capone e Carlo Stagnaro, perché firmano questo pezzo il cui occhiello, il cui sommario è indicativamente la via del sottosviluppo, dove dicono che la proposta di Sassoli sul debito da cancellare è inutile eppure pericolosa. Inutile perché c'è la BCE, che è la Banca Centrale Europea, che sta comprando in questo momento, e quindi sostanzialmente non c'è bisogno. Meglio sarebbe stato chiedere, più utile, praticamente percorribile, dicono Stagnaro e Capone, chiedere alla BCE un ampliamento del programma di acquisto per l'emergenza pandemica. Ma non solo, crea dei problemi a livello nazionale con il rialzare la testa e riportare alla ribalta, scrivono Claudio Borghi, Alberto Bagnai e tutta la frangia più estremista della Lega. E dall'altra parte è incomprensibile se guardiamo al fronte estero. L'Italia sta giocando una delicata partita per ottenere sussidi e prestiti nell'ambito di Next Generation EU, in opposizione ai paesi frugali che temono sprechi a non finire, e proprio in questo frangente delicato politici di primo piano e addirittura rappresentanti del governo, perché poi il ministro Provenzano si è detto d'accordo con lui, avanzano la richiesta di non ripagare i debiti. Come si può pensare che questo rafforzi il nostro potere negoziale a Bruxelles? Mi sembra un punto rilevante. E poi c'è tutto il fronte della manovra, ovviamente. Il fronte della manovra con l'intervista al presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, intervistato da Raffaele Marmo sul quotidiano nazionale, attacca duramente, dice il governo sbaglia, pensa solo all'emergenza, non servono sussidi ma idee e investimenti. Quello che chiede Bonomi è di destinare le risorse a priorità strategiche. Governo che non trova l'appoggio nemmeno dei sindacati, nonostante, come dicevamo, questi consistenti investimenti nel settore pubblico. I 10 miliardi dei quali ci racconta il Sole 24 Ore, con una serie di servizi e analisi che vanno da 3,6 miliardi per nuove assunzioni fino al 2033. Altri 400 milioni per il rinnovo contrattuale, che porta il totale a 6,7 miliardi di costo complessivo, ma sindacati, come dicevamo, che non sono soddisfatti, lo raccontano poi anche in questo pezzo Marco Mobili e Gianni Trovati, e che minacciano lo sciopero. Sul Sole 24 Ore trovate anche tutti i dettagli della manovra, una manovra da 38 miliardi, la proroga per le misure per medici e infermieri, lo sgravio totale per assumere le lavoratrici, anche questo sta sollevando un po' di dibattito. Beh, a chiudere un po' di politica, molto rapidamente, innanzitutto ci fa notare Renato Farina, pagina 9, che Silvio Berlusconi è diventato l'idolo dei progressisti, ormai lo cercano tutti, da quando ha detto siamo responsabili, se c'è bisogno ci siamo, è diventato l'idolo dei progressisti e piace a tutti, tanto che troviamo un'intervista a pagina 6 e 7 del Fatto Quotidiano con Luigi Di Maio, che ne parla come solo 5 anni fa non ne avrebbe mai parlato. E ci fa notare, questa ve la metto là, non è male, a pagina 6 Libero ci fa sapere con Tommaso Montesano che c'è Italia Viva che storce il naso. Perché? Perché il Presidente del Consiglio ha affidato a Rocco Casalino l'incarico di fare che cosa? Di rifare la sala stampa, ristrutturare la sala stampa di Palazzo Chigi. GR24, ci risentiamo dopo con Paolo Mieli, con i nostri ospiti, Anna Maria Furlan sarà con noi, e poi il presidente della Regione Calabria, Spirlia, tra poco.